Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, programmi rigorosamente open per questi mondiali aperti, studi aperti da cittadini del mondo, qui degli amici che sono venuti a vedere l'Argentina con me, tra poco ve li presento. Argentina 0, Germania 1. Per quelli come me che hanno fede argentina, insomma, pomeriggio di sofferenza. Germania è partita fortissimo in gol dopo 3 minuti con Müller. Colpo di testa in anticipo su Otamendi, Argentina che non riusciva ad entrare in partita, primi 20 minuti totalmente nelle mani della Germania. Poi si è visto qualcosa, ma l'Argentina non si è ancora accesa, soprattutto Messi non si è ancora acceso. Io tifo Argentina da quando ero bambino, ma credo che mai in Italia, dopo l'eliminazione azzurra, ci sia stata così tanta partecipazione per un'altra nazionale, come in questo caso a Napoli e non solo. Allora, mi è sembrato il caso di disturbare per 2 minuti il capitano di Maradona al Napoli, Beppe Bruscolotti. Buon pomeriggio, Beppe. Ciao, buon pomeriggio. Immagino che anche per te... Pomeriggio un pochino tristino. Beh, ma aspettiamo. Aspettiamo, 51... sì, diamo fiducia, però 51esimo. Questa squadra oggi balbetta un po', anche se veramente c'è di fronte a una squadra tonica, ma questo si sapeva. Sì. Che comunque è una squadra che se non vince arriva lì, seconda, terza, quasi. Lo so, i tedeschi ai mondiali sono delle brutte bestie. È difficile da superare. Senti, perché non riusciamo a mettere in partita Messi? Ma non lo so, lo vedo tante volte defilato, così non partecipa come dovrebbe, perché in questo momento dovrebbe essere il risolutore, quello che dovrebbe inventare qualcosa, perché chiaramente la squadra fa un po' di fatica e quindi è l'unico che dovrebbe prendere un po' in mano la situazione. Beppe, Diego simbolo del calcio, è tornato ad essere simbolo del calcio come non era più dal 94 praticamente. Per te, tuo amico Diego, sei stato suo capitano, poi gli hai ceduto la fascia del Napoli. Rivederlo protagonista del calcio, cosa vuol dire? Cosa significa per te? Vuol dire tanto per tutti i suoi affezionati e principalmente per lui. Quindi per ritornare nel suo mondo quindi di vivere da allenatore una vita che insomma gli ha dato tanto, quindi è normale che sia giusto così, perché comunque un personaggio del genere non può rimanere fuori da questo mondo. Per chiudere, Beppe, poi ti lascio alla partita, l'eliminazione del Brasile, come l'hai letta, è stata così sorprendente per te, oppure il Brasile era un bluff? Sorprendente per certi aspetti, però non del tutto, perché chiaramente è trovata una squadra che sappiamo, sono compagini che ti possono creare difficoltà, come è successo. Magari la partita non l'ha chiusa nel primo tempo e chiaramente il secondo tempo è successo quello che è successo. Grazie Beppe, buona partita. Grazie a voi, ciao, grazie. Buona partita, Argentina che attacca, c'è un calcio d'angolo, ma la difesa della Germania riesce ad uscire con Ozil che riparte, Argentina che non riesce a costruire occasioni da gol, Germania velocissima nelle ripartenze, adesso c'è De Michelis che conquista la palla a centrocampo e prova ad innescare Maxi Rodriguez che punta l'avversario, lo salta, mette in mezzo, Neuer non trattiene, la Germania libera, 800-24-0024, numero verde per voi. Come ogni giorno e come ogni sera durante questi mondiali, perché poi da lunedì riprendiamo, dalle 9 alle 10 e mezza tutte le sere, anche per la finale. Messaggi 349-238-6666. C'è il Brasile da commentare, la grande notizia di ieri, tra poco ci colleghiamo anche con il Sud America, con l'Argentina in particolare, ma per capire quali sono state anche le reazioni della stampa, sto rivedendo un sinistro di Tevez deviato da Schweinsteiger in calcio d'angolo. Un primo ascoltatore già in linea, ma prima voglio presentarvi degli amici sudamericani, non argentini però, che sono venuti a trovarmi. Buongiorno a tutti, ti chiami? Fernando. Ti chiami? Claudio. Ti chiami? Buongiorno a tutti, mi chiamo Edwin. Ecuador, Cile. Cile, esatto. Sì. Fuori col Brasile? Sì, purtroppo sì. E adesso per chi si tifa? Adesso per le sudamericane, Argentina. E stasera magari Paraguay, o no? Sì, perché sì, la Spagna è nel nostro girone, quindi tifiamo per il Paraguay. Sì. Dell'eliminazione del Brasile cosa dici tu? Ma secondo me il Brasile ha giocato male, ha avuto un girone troppo facile. E poi ha incontrato il Cile, che è sempre storicamente molto più debole del Brasile. E ieri è uscita, cioè l'Olanda ha meritato di vincere la partita, quindi secondo me è giusta. È una giusto. Nazionale che non ha stelle, non ha... Bravo, è una nazionale che non ha stelle. Forse era un grande bluff, perché Luis Fabiano non si è dimostrato una stella, perché Robinho ha fatto il percorso inverso a quello che fanno le grandi stelle del calcio mondiale, perché non si passa dal Real Madrid al Manchester City al Santos. Secondo me si fa il percorso inverso: Santos, City, Real. Beh, come dato, idea, eh? Dato al Manchester più per il portafogli. Bravo. Primo ascoltatore in linea, poi ho degli amici argentini anche di là dal vetro. Tra poco faccio entrare, perché insomma, come dicevo, sinergia con questa manifestazione che c'è qui al Sole 24 Ore. Infatti. Mi piace sentire voci del mondo. Davide da Venezia. Buongiorno. Buongiorno. Guardi, io sto guardando la partita. Sì. E a me pare che proprio l'Argentina non abbia il gioco senza palla, e quindi sono prevedibilissimi. Beh, questo cioè, è vero. I tedeschi stanno lì, aspettano, e che fatica vuole che facciano. Sono molto bravi, i tedeschi sono molto bravi, sì, nel raddoppiare e triplicare ogni volta dopo il secondo, terzo passaggio dei centrocampisti argentini, in particolare Messi, perché Messi quando riceve palla ha due o tre tedeschi che gli saltano addosso letteralmente. Quindi questo è vero, l'Argentina non ha gioco senza palla, ma soprattutto la Germania ha imposto il suo ritmo nei primi 20 minuti. E in questa ripresa mi sembra stia controllando senza troppe difficoltà, no? Certo, certo. No, ma comunque i tedeschi devo dire che hanno un'organizzazione di gioco che veramente l'hanno imparata alla grande, sono quasi perfetti. Sì, e i tedeschi hanno anche dei signori, Davide, i tedeschi hanno anche dei signori giocatori, perché Müller, certo, che peraltro è stato ammonito nel primo tempo e salterà l'eventuale semifinale, ed è una perdita non da poco comunque per la Germania, dovesse andare avanti, perché è un giocatore meraviglioso. Secondo me è la vera stella di questa Germania. Ozil l'ho visto un po' meno, che dirà, un giocatore che comunque a centrocampo è pazzesco. Vediamo adesso Tevez, che prova a saltare i raddoppi della Germania, ma è un'Argentina che, come detto, non riesce. Eccolo qui Messi sulla tre quarti, vedi, tre giocatori addosso, Messi riesce a saltare il primo, gli altri è più difficile. Certo. Questa è fin qui la storia della partita. Unico tiro pericoloso verso la porta dell'Argentina, 35esimo, con Higuain che è stato bravo a saltare in un fazzoletto Friedrich, era un tiro difficile parato da Neuer. Ho l'impressione che se l'Argentina non riuscirà ad innescare con maggiore continuità Messi e Higuain, potrebbe essere un problema da qui alla fine. 58-04 sul cronometro, Argentina 1, Argentina 0, Germania 1. 800-24-0024 per venirci a trovare telefonicamente, vivere con noi questa partita. Poi magari commentiamo anche il Brasile, che, ripeto, ieri ho avuto la prova, non era una squadra grande come avevamo pensato, come eravamo abituati a vedere. Anche qui in patria ci sono grandi contestazioni sugli esclusi, secondo me sacrosante, perché giocatori come Gansio e come Neymar, che saranno le nuove stelle brasiliane, non si potevano lasciare a casa per portare Grafisch. L'ha detto ieri sera Giuseppe Altafine a questi microfoni: Grafisch, Luis Fabiano, Julio Baptista, ma che ci stavano a fare Pato, Gansio e Neymar in vacanza? Comparsa vicino a me anche una maglietta albiceleste. La porta, come ti chiami? Mariano. Mariano, perché l'Argentina non riesce a decollare in questa partita? Siamo disorganizzati, Messi è troppo in difesa per prendere la palla, non riusciamo a arrivare nella porta per tirare. E Di Maria è una delle stelle presunte fin qui di questo mondiale, deludente il giocatore che Mourinho ha voluto tutti i costi al Real. Sì, non, a me non mi sembra tanto convincente, mi piacerebbe vedere a Pastore per giocare un po' più con Messi. Eh sì, sono d'accordo. Pastore, che ha fatto una grande stagione nel Palermo e che potrebbe essere la stella nascente anche di questo mondiale. Sì, sì. Ha giocato alcuni minuti l'altro giorno e ha dimostrato che sai come giocare. Anche una voce femminile che è venuta a trovarci, ma è italiana però. Sono italiana, sì. Ti chiami? Fabiana. Fabiana, buongiorno. Per chi tifi? Ma io sono per l'Argentina, per via di tutti i miei amici, anche se ho vissuto molto tra Austria e Germania, quindi... Ah, è un'infiltrata anche lei. Però sono un'infiltrata per l'Argentina. È una spia. Tantissimi amici. 800 24 0024, folta rappresentanza del Sud America qui oggi. Attenzione alla Germania sulla sinistra, sulla destra ancora con Müller che mette in mezzo e allontana la difesa argentina, una difesa argentina che anche in occasione del primo gol, cioè dell'unico gol fin qui di questa partita, mi è sembrata rivedibile. Otamendi ha fatto due errori secondo me nel corso della medesima azione, prima un fallo piuttosto inutile, anche piuttosto duro, che poteva costargli un giallo sulla sinistra, punizione battuta dalla tre quarti da Schweinsteiger, e Otamendi che si perde per strada Müller. Attenzione, in questo momento il tiro di Tevez, ma facile dalla distanza, da 25-30 metri, facilmente bloccato a terra da Neuer. Dunque un'Argentina che ancora non riesce ad essere pericolosa. Proprio in Argentina voglio andare, dove c'è un italiano, mio amico e nostro corrispondente Emiliano Guanella. Ciao Emiliano, dove sei? Pronto? Emiliano, dove sei? Sono in piazza San Martino, nel centro di Buenos Aires. Che si dice intorno a te? Beh, insomma, qua l'attesa è, cioè, l'atmosfera assolutamente drammatica, perché il gol a 3 minuti dall'inizio della partita della Germania ha gelato la piazza. E come sentite, insomma, si sta vedendo, sono circa 25.000 persone con due grandi massi schermi. Ovviamente c'è ancora fiducia, però l'idea generale di una partita, di una squadra che non funziona soprattutto in difesa. Sì, soprattutto in difesa, soprattutto in assenza di Walter Samuel. Purtroppo il collegamento non è perfetto. Vediamo di ripristinarlo magari più tardi con Emiliano Guanella da Buenos Aires, anche perché sono curioso di capire, mi piacerebbe sapere quali sono state le reazioni dei giornali argentini, in parte le so, dei giornali argentini all'eliminazione del Brasile. Argentina ancora in avanti che ci prova con Tevez, attenzione che la palla sta per arrivare a Higuain, ma c'è Lam che riesce a salvare deviando in calcio d'angolo. A Mariano chiedo anche da argentino l'impressione, la sensazione per l'eliminazione del Brasile. Penso che non ha sorpreso a tutti, veramente no, tutti aspettiamo un po' più di Brasile. È un mezzo allegria, un mezzo tristezza, perché come sudamericano non mi piace che loro siano andati fuori. Non ci credo. Non ci credo perché non ci credo, perché io immagino che insomma il sogno sia fosse quello di batterli in finale, no? Forse per questo può essere vero. Può essere in parte era vero. Lavorando, e tutti i miei amici mi inviavano delle email tristezza non ti infine, qualcosa divertentissime. Ma comunque non tutti sono d'accordo. Perché? In che senso? Ma nel senso che il Brasile di solito arrivavano in finale, cioè i soliti. Sì. Adesso comunque ha cambiato questo mondiale molto. Sì. Cioè, sono il Paraguay e l'Uruguay, che in realtà sono squadre fortissime. Sì. Io sono contentissimo che in realtà il Brasile in questo momento sia stata eliminata per l'Olanda, che come diceva il mio compaesano, che loro sono una squadra fortissima, ma non hanno una stella ancora. Vediamo finale il Sud America, Sud America, però sarebbe incredibile se l'Olanda andasse in finale proprio in Sudafrica. Perché? Beh, per questioni di... Ma sai, anche questo fa parte delle stelle di un mondiale. Ieri l'Olanda è stata bravissima nel difendere la sconfitta, a mio parere, nel primo tempo, quando poteva prenderne anche due o tre e il Brasile avrebbe così chiuso la partita. Come Cile. Esatto, l'Olanda è stata bravissima nel difendere la sconfitta, nel limitare i danni, sapendo che poi qualcosa lì davanti con Robben, Schneider e Van Persie sarebbe successo. Poi paradossalmente nel secondo tempo non è neanche cambiato molto il fin della partita. L'Olanda è riuscita a trovare il gol in modo abbastanza casuale, con quel traversone di Schneider e con Julio César, a mio parere il miglior portiere del mondo, che ha fatto quello che Zenga fece a Italia 90, cioè un'uscita clamorosamente sbagliata. D'altra parte si è assunto, come è giusto, tutte le responsabilità del caso. Questo gol trovato nel nulla, lì il Brasile si è sciolto nelle sue paure. Ho visto che prima stavi per esultare, cos'era successo? No, siamo... Stiamo soffrendo. Siamo, sì. Allora, volevo... dimmi. No, mi sembra che all'Argentina gli manchi proprio l'ultimo tocco, quello sì, che contro il Messico invece ha fatto fare una partitona. Anche il penultimo, secondo me, perché l'Argentina di oggi non riesce davvero ad innescare Higuain, che Higuain che ha fatto male al Messico, ha fatto male anche all'avversario precedente, che è capocannoniere di questo mondiale, però non è ancora riuscito a, ad avere una palla gol degna di questo nome. 800 24 00 24, il vostro numero verde per intervenire, naturalmente messaggi 349 238 6666, insieme fino alle 18 come ogni sabato, e poi domani riprendiamo i discorsi con le solite due ore domenicali. Il Cile a me ha fatto una grandissima impressione, chiedo a voi cileni. Poi è arrivato il Brasile, questa sconfitta 3-0, attenzione perché c'è la Germania ancora con Müller, la palla in mezzo per Miroslav Klose. Miroslav Klose, questa non ci voleva proprio. E questa non ci voleva proprio, e la difesa argentina ancora una volta distratta. Angela Merkel con il suo tagliorino rosso che si alza in piedi ad applaudire i suoi, e adesso sarebbe anche il caso, caro Diego Armando Maradona, di cambiare qualcosina, perché Milito in panchina e Pastore in panchina non possono più restare. Vediamo l'azione della Germania con Podolski che parte sul filo del fuorigioco, mette in mezzo un pallone su cui Romero e anche Burdisso in tutta onestà si addormentano, lasciando erano in vantaggio su quel pallone, che passa tra il tentativo di spaccata di Burdisso e la mano protesa di Romero, e Klose a porta vuota da un metro segna il classico gol che, diciamo qui, segnavo anch'io. Sì, Romero non mi dà tantissima sicurezza come portiere, proprio non mi esalta, devo dire, l'ho notato anche prima. Sì, la verità è che senza Samuel l'Argentina dietro ha grandissimi problemi. C'è l'autostrada? Senti, ma ce la possiamo ancora fare secondo te? Mancano minuti, sai che nella Coppa del Mondo tutto si può fare. Sì, tutto si può fare. Aspettiamo. Però ci vuole una reazione che ancora non vedo. È incredibile come questo mondiale, insomma, fin qui siamo al 68esimo e 33 secondi. Attenzione ancora alla Germania che parte in velocità con Müller, con Podolski, scusate, in questo caso. Il tiro è facilmente bloccato da Romero. Insomma, 68 e 46, mancano ancora diversi minuti, ma è incredibile notare come questo mondiale potrebbe bocciare in maniera clamorosa un'altra stella, no? Ieri è stata la volta di Kakà, abbiamo visto uscire tutte le grandi stelle attese di questo mondiale. Ecco che sta per entrare Pastore, abbiamo visto uscire senza aver lasciato tracce in questo mondiale Cristiano Ronaldo. Ieri abbiamo visto uscire un Kakà che pure non ha lasciato segni in questo mondiale sudafricano. Messi stesso fin qui non ha segnato e non ha lasciato tracce profonde. 69 e 28, Argentina che ci prova, ecco Messi pescato in posizione centrale ma il passaggio è impreciso, non riesce a raggiungere il pallone, e l'Argentina continua a soffrire sotto 2-0 con la Germania che, insomma, vista fin qui è la miglior squadra di questo mondiale. Adesso vediamo se con l'ingresso di Pastore il vento potrà cambiare. 800 24 00 24 per intervenire, noi ci fermiamo un attimo e poi torniamo con il messaggio. Paolo da Milano, grande Germania, alla prima vera partita Argentina a casa. Posso dire che tengo alla Germania, dove scrive un ascoltatore, può dire quello che vuole. Potete anche dirlo con la vostra voce al telefono, vi aspetto. Adesso mi sa che l'Argentina sta davvero per tornare a casa, ha preso anche il terzo gol dalla Germania, 0-3, 77esimo ora in corso. Il gol è stato segnato da Friedrich con Schweinsteiger, che si è infilato nella difesa argentina saltando come paletti, Pastore prima, Di Maria poi, palla in mezzo e facile gol da due passi di Friedrich. Ma una difesa argentina che sta mostrando tutte le sue crepe, sto rivedendo Schweinsteiger ora, percussione sulla sinistra, salta tre giocatori, mette in mezzo ancora una volta Romero in un'uscita bassa da dilettante o quasi, e Friedrich che anticipa Heinze e segna il gol del 3-0. Ma d'altra parte, insomma, questa sensazione l'ho sempre avuta, il mondiale dell'Argentina, se finirà così, e temo finirà così, L'Argentina è stato condizionato dall'infortunio di Samuel, senza il quale questa difesa non è competitiva contro una grande squadra come la Germania. Volevo sentire anche il mio amico Quadregno qui in studio, che cosa ne pensa? Penso che l'Argentina stia pagando la presunzione di Maradona. Ah. Troppo presuntuoso, cioè, non può lasciare un giocatore come Milito e portarsi Higuaín. Cioè, Higuaín non ha fatto niente in questa partita, no? Non ha neanche ricevuto però i profi, qui ne ha fatti quattro. Ci vuole un giocatore come Milito che comunque faccia salire la squadra. Sì. Continuo a pensare che il problema vero dell'Argentina sia la difesa, ma adesso mi collego anche con il Sudafrica, dove c'è Enrico Currò, mio amico inviato di Repubblica. Ciao Enrico. Ciao. La caduta degli dei. Oggi cade un altro degli dei presunti di questo mondiale, cioè Lionel Messi, Enrico. Sì, è una cosa che francamente ci ha spiazzato un po' tutti, perché se all'inizio del mondiale ci avessero detto che la Germania delle seconde schiere sarebbe riuscita a eliminare l'Inghilterra e l'Argentina di seguito con questa facilità, nessuno ci avrebbe davvero creduto. Messi, secondo me, in questa partita è stato troppo isolato dal resto della squadra per poter incidere. Un paio di tiri anche piuttosto brutti, su uno si è visto che Maradona ha alzato gli occhi al cielo, come dire, se ci fossi stato io non avrei tirato così male. Però insomma è una delusione non vedere più in campo Messi, però è il giusto trionfo di una squadra che è stata molto sottovalutata. Senti, posso dirti però, Germania è impressionante in questa partita, in quella precedente contro l'Inghilterra, in alcune fasi sembra davvero che vada al doppio rispetto a qualunque altra avversaria. Io credo infatti che il dato più evidente delle vittorie della Germania non sia tecnico ma atletico. Questo senza nulla togliere ai giocatori tedeschi, tra i quali ci sono alcuni talenti e soprattutto tra i quali ci sono molti giovani, perché la Germania insieme al Ghana è la squadra che ha fatto giocare più giovani in questo mondiale. Però detto questo e detto che appunto i giocatori giovani probabilmente sicuramente hanno una freschezza atletica che quelli più vecchi non hanno, va detto anche che l'aspetto principale che emerge, come hai detto tu, è che la Germania va al triplo della velocità rispetto all'Argentina, che andava al triplo della velocità rispetto all'Inghilterra. Sì. E quindi ancora una volta si conferma che in un mondiale, in una competizione di poche partite, quello che conta di più è il fisico. Il calcio di oggi è un calcio decisamente atletico e la Germania l'ha capito meglio degli altri. Certo, poi anche un po' di buona sorte, perché le stelle hanno mandato in tribuna il freno a mano di questa Germania, che adesso sta seduto lì vicino a Birov ed è Ballack. Tutto sommato è stato un colpo di fortuna, continuo a dirlo e a pensarlo, per questa Germania nella quale Ballack non c'entrava nulla come giocatore, come personaggio, come personalità. Però sai, a vedere anche le decisioni che ha preso questo Löw, questo tecnico a sua volta molto sottovalutato perché molto poco conosciuto, forse non è così scontato che se fosse stato bene Ballack avrebbe giocato. Mi sembra che Löw sia un tecnico che ha le idee decisamente chiare, a differenza di tanti altri. Tra l'altro un altro dato che emerge è quello dell'ecatombe di commissari tecnici, già ne sono saltati 13 su 32 e non è detto che sia finita. Enrico, ieri è stato scoperto il bluff del Brasile, secondo te o c'è qualcos'altro dietro questa eliminazione brasiliana? Io continuo a pensare che questo non fosse un grande Brasile. No, non sarà stato un grande Brasile, però per quello che si è visto a livello tecnico in questo mondiale poteva anche essere sufficiente. E devo dire che nel primo tempo, per quanto l'Olanda sia una squadra buona, non dico ottima, ma buona, con un fuoriclasse che secondo me in questo momento al mondiale tra i giocatori più celebrati è quello che non ha tradito, anche se ha giocato poco, e cioè Robben. Detto questo, credo che il Brasile nel primo tempo fosse stato nettamente superiore all'Olanda e che abbia pagato alla fine, oltre alle scelte di Dunga, oltre a questa incredibile sciocchezza di questo Felipe Melo. Io credo che, per scherzare ma non troppo, bisognerebbe fare un monumento ai due, non un monumento, bisognerebbe premiare per la loro bravura i due procuratori di Felipe Melo e di Pepe, il nostro della nazionale, certo. Perché riuscire a far pagare così tanto due giocatori del genere credo che sia davvero un'impresa. Credo che però l'uscita di Julio César, che sia stato il pallone o meno, abbia alla fine davvero tarpato le ali al Brasile, perché fino a quel momento, diciamo la verità, per quanto, come dici tu, il Brasile non fosse il miglior Brasile della storia, se il primo tempo si fosse chiuso con un paio di gol di vantaggio per il Brasile non ci sarebbe. Ma secondo me l'Olanda è stata, lo dicevo prima, bravissima nel difendere la sconfitta nel primo tempo, quando il passivo poteva essere più pesante, quando Stekelenburg comunque ha salvato il risultato. L'Olanda poteva, è stata molto brava nell'accontentarsi di quell'1-0 di svantaggio, certa che poi qualcosa sarebbe cambiato di davanti, però è stato impressionante vedere come il Brasile si è sciolto letteralmente nelle sue paure dopo aver preso il gol di Sneijder. Hai detto una cosa esattissima, perché credo che questo mondiale stia un pochino sovvertendo anche i luoghi comuni del calcio, no? Per esempio l'Olanda, siamo abituati a pensare che sia la squadra della scuola della tattica del fuorigioco, e ne ha sbagliati almeno 10 nelle ultime due partite, però nello stesso tempo siamo abituati anche a pensare che l'Olanda sia una squadra magari che ci cala, diciamo così, e invece ieri si è comportata come l'Italia era la squadra brava a difendersi per definizione ed è stata sciagurata in difesa. Il Brasile era la squadra che in tutte le partite manteneva questa voglia di fare spettacolo, che era superiore anche nelle giornate più tristi, anche nelle sconfitte più cocenti, a qualsiasi episodio singolo si verificasse durante la partita. Poi magari perdeva, ma le caratteristiche dei brasiliani erano quelle di, cioè, prendono un gol, non c'è problema, palla a metà campo, si ricomincia a giocare. Questo Brasile, privato delle sue radici, perché Dunga ha cercato di costruire una specie di Germania d'antan, no? Esatto. Ha perso ogni certezza. Ma anche l'Argentina di oggi, se vuoi, è lo stesso discorso, perché l'Argentina che noi eravamo abituati a vedere è un'Argentina tutto sommato diversa appunto dal Brasile, quindi una squadra basata anche molto sulla forza difensiva oltre che sul talento dei giocatori. La difesa dell'Argentina è francamente impresentabile, ma non nella partita di oggi, già prima si erano viste delle crepe, poi al primo avversario serio è successo quello che è successo. A questo punto vince la Spagna, so che la seguirai stasera, oggi hai fatto il pezzo di presentazione su Repubblica di Paraguay-Spagna, a questo punto è la Spagna la grande favorita? Però io non mi sbilancio più, per come gioca, per come giocano, per quello che si è visto finora è chiaro che la Spagna e la Germania sono le due squadre che hanno giocato meglio, e la Spagna, essendo comunque più dotata di tecnica rispetto alla Germania, dovrebbe essere anche favorita. Però come si fa a trascurare anche per esempio l'Uruguay? L'Uruguay, i mondiali hanno, abbiamo detto finora che si stanno sovvertendo tutte le tradizioni, però c'è una tradizione che è quella che fuori dall'Europa non ha mai vinto il mondiale una squadra europea. Quindi in questo senso, se dovessimo dare retta alla storia, dovrebbe vincere l'Uruguay, che è una squadra molto molto solida, devo dire. Il dato che emerge di più guardando le partite dell'Uruguay è proprio quello che è una squadra molto concreta, molto attenta a non fare esattamente quello che abbiamo detto adesso di Argentina e Brasile. Poi il paradosso è che di tutto questo, tutta questa retorica su Sud America che abbiamo fatto in questi giorni, io per primo, si sta sgonfiando, alla fine rimanga proprio l'Uruguay. Poi per carità c'è ancora il Paraguay, non vendiamo la pelle dell'orso paraguayano, vendiamo. Grazie Enrico, buon lavoro. Ciao. Grazie davvero Enrico Gurò, inviato di Repubblica. Io andrò da Livorno in linea, l'Argentina è già sull'aereo, Germania 3 Argentina 0, 87esimo minuto. Ci riprova Messi in questo tentativo, un tiro centrale anche un po' triste, se volete, perché è quasi il simbolo del suo mondiale, quasi incolore, incredibilmente. Prima di andare da Livorno vorrei fare un giro di opinioni, anzi sentiamo prima di andare da Livorno che gli do un bel po', poi chiedo ai miei amici qui presenti tra Cile, Ecuador, Italia, Germania, Austria, per chi tifi? Beh, io adesso, Argentina a casa, per chi ti ferma? Adesso non lo so. Pensiamoci un attimo, poi facciamo un giro di opinioni su chi vincerà questo mondiale così strano e così rivoluzionario. Andrea, buonasera. Sì, pronto, buonasera. Buonasera, complimenti. Io una bella premessa: per quanto mi sta simpatico, il tappeto rosso lo stenderei a Maradona per salire sull'aereo. Sì, Sì. Io no, però sa, questione di gusti. Sarà che ho un passato negli anni 80-90 da milanista, quindi forse diciamo deriva e risale a quello, però vabbè, io ero per Gullit, lui era Maradona, vabbè, niente. Volevo solamente fare una considerazione, come a parte Maradona che è stato un grandissimo e il buon Pelé che mi ricordo poco, mamma mia, quarto gol della Germania, lo segna ancora Klose. Questo punto è umiliazione sul serio, esatto. Fuga sulla sinistra, ma una difesa argentina, come diceva prima Enrico Currò, davvero impresentabile, perché come la Germania accelera si infila nel nulla. La difesa argentina è il nulla, come d'altra parte temevo. Andrea, prego. Sì, no, con pardon por las damas, probabilmente. Con pardon de las damas, sì. Sì, no, volevo una breve considerazione a quello che ha detto lei prima, che difficilmente, a parte Maradona e il buon Pelé, che sono stati chiaramente forse gli unici fuori classe, i numeri 10 hanno sempre, diciamo, fatto una gran bella figura ai mondiali. Io non me ne ricordo altri. Mi piace un po' ricordare il calcio non tanto al ruolo di oggi, ma come con i numeri. Quando noi abbiamo vinto nel 2006, nell'82 non c'era un vero numero 10. Sì. Nel 2006 Pirlo era arretrato, quindi secondo me con il calcio, dopo l'82 è più uno stativo che altro. Questa è una considerazione molto interessante, caro Andrea, perché ho l'impressione che comunque il numero 10, giocatore di fantasia, di talento, di difficile collocazione tattica, il numero 10, se ancora esiste il numero 10, sia difficile farlo rendere in una, insomma, il problema è trovargli la posizione, la collocazione, la possibilità di esprimere completamente il suo talento. Credo siano particolari in cui nel calcio moderno si debba lavorare tutti i giorni per lungo tempo, cosa che in una selezione, in un torneo così breve, non è possibile fare. Quindi certamente questa considerazione è molto interessante. La svilupperemo anche domani magari, perché insomma domani io attendo un sacco di telefonate di Leggio nei miei confronti, data la mia simpatia argentina. Oggi davvero senza difesa e senza scusanti, 0-4 con la Germania, siamo in recupero, per fortuna sta finendo un solo minuto di recupero concesso e poi la Germania va avanti, l'Argentina torna a casa. A questo punto vi chiedo, ma questo mondiale così strano, chi lo vince? Finisce qui, finisce così, trionfo argentino, trionfo tedesco, umiliazione argentina, 4-0 per la Germania in una partita che nel secondo tempo non ha avuto nessuna storia, in una partita nella quale praticamente l'Argentina non è mai riuscita a tirare in porta e nella quale la Germania ha fatto davvero ciò che ha voluto. Adesso ai miei amici qui in studio chiedo, ma questo mondiale così strano, così rivoluzionario, dicevo, la semifinale da questa parte sarà Germania ovviamente contro la vincente di Spagna-Paraguay, dall'altra parte c'è l'Olanda, ci sono l'Olanda e l'Uruguay, ma questo mondiale chi lo vince? Cominciamo dal Cile, poi andiamo in Ecuador e poi torniamo in Italia. Ma io penso che sicuramente la Germania parte favorita, perché... perché gioca fare 8 gol in 2 partite non capita mai per caso, quindi sì. L'Olanda non avrà vita facile. No, chi vince tra Paraguay e Spagna non avrà vita facile. Poi. Certo che la Germania, se arriva al titolo, si è beccata l'Inghilterra, fatta fuori. L'Argentina l'ha fatta fuori e poi uno tra Paraguay e Spagna. Facciamo la Spagna. E poi in finale, insomma, magari l'Olanda, nella riedizione della finale del 74. Chi vince secondo te? Penso io che sarà anche la Germania. La Germania? Sì. Tedeschi vedendo la partita, sì, i tedeschi sono più forti. Vedendo come è capitata fino a questa partita, io chi secondo me l'Uruguay. L'Uruguay, adesso tifiamo Uruguay. Tifiamo Uruguay. A Celeste, però semifinale senza Suarez, che ieri ha beccato l'espulsione, ma è stato l'eroe della partita, perché se non para quel quel tiro sulla linea e poi conseguente rigore. Cani ha buttato via un'occasione d'oro. Guarda, quando sbagli rigore al 120esimo non c'è verso, il calcio è così, non ti perdona. Sbagli rigore al minuto 120 e ai rigori perdi matematico. Infatti è stato confermato quanto questo assioma. Secondo te, andiamo in Ecuador dopo il Cile, chi lo vince? Da buon sudamericano tipo per l'Uruguay, però ho fiducia nell'Olanda, sì. La fantasia del nostro Wesley. Sei un po' interista o sbaglio? A morte. A morte. Sempre nero azzurro. Alla fine Snyder è rimasto la stella vera di questo mondiale. Un giocatore completo, fantasia. E quello che non ha avuto l'Argentina, secondo me, in questo mondiale. Pensa che bello trequartista. Vero. Pensa che, come scrive ad esempio Luca Valdiseri oggi sul Corriere della Sera, ricorda come 10 mesi fa il Real Madrid chiuse a chiave l'armadietto di Snyder, no? Operazione di mobbing, quasi per indurlo ad andare via. Gli chiusero in faccia l'armadietto e gli portarono via la chiave. Come dire, guarda, vattene perché qui non ti vogliamo più vedere neanche dipinto. Penso un po' com'è il calcio. A volte, anche se sei una stella, non è detto che una squadra vai sempre bene. Bisogna trovare il posto giusto. Sì, è la squadra giusta per te. E al Real Madrid non è il primo casino che combinano, comunque non sarà nemmeno l'ultimo. Non è il primo errore gravissimo che combina. Mi viene in mente anche Cambiasso, ma mi viene in mente Robben, un altro che potrebbe vincere il mondiale alla faccia dei speriamo per dei l'Olanda. Madrileni. Tu per chi tieni adesso? Ma la simpatia sarebbe per l'Uruguay. Però in questo mondiale, che doveva essere il mondiale delle sudamericane, a questo punto potrebbe anche essere una finale Germania-Olanda. Finale Germania-Olanda, una grande classica del calcio europeo. Esattamente. Volete sentire un po' di ascoltatori che mi prendono in giro? Vediamo. Alberto da Milano e Francesco da Treviso. 800 24 00 24. Per fortuna tra 4 minuti abbiamo chiuso e domani non mi presento dalle 17 alle 19. Domani sono malato dalle 17. No, scherzo, sono qui naturalmente e con grande piacere. Alberto, buonasera. Sì, buonasera Carlo, no, non ti prendo in giro. Grazie. Anzi, complimenti per la trasmissione, però davvero non sono d'accordo con quello che hai detto sull'Argentina. Sicuramente l'infortunio di Samuel è stato un grosso problema, però l'Argentina secondo me è proprio scarsa in mezzo e davanti. Credo che il fatto che Messi non renda in nazionale come rende nel Barcellona dipenda dal fatto che c'è Tevez. I due secondo me si pestano i piedi e Tevez ha forse anche più personalità di Messi, secondo me lo soffre un pochino. Questo può essere. Detto questo, lasciare a casa Cambiasso e persino Zanetti, secondo me questo è un errore. D'altra parte, questa squadra senza Otamendi, equilibrio, no, va bene, lasciamo stare. No, ma questo è vero, però non credo. Guarda, paradossalmente, che sia questo il senso di questa eliminazione. Può essere che Tevez abbia sottratto spazio, campo e ossigeno a Messi, il cui mondiale per un giocatore così grande resta però non deludente, ma senza alcuna scusante, nemmeno quella di un'assenza di spazio, di un remake di quel film già visto con il Brasile 4 anni fa, con Ronaldinho e Kakà che si rubavano porzioni di campo e nessuno dei due è riuscito ad essere mai decisivo. Io continuo a pensare che però, guardando quella difesa disastrosa dell'Argentina, insomma, un giocatore come Samuel era quello che poteva quantomeno chiudere qualche buco. In questa difesa dell'Argentina chi lo chiude i buchi? Burdisso. Sì. Prima dicevi, e anche qualcun altro ha detto, che la Germania è soprattutto fisico. Ora, i tedeschi sono tedeschi, per carità, però io vedo anche una grande, grande tecnica in vari giocatori. Oggi ho visto uno Schweinsteiger mostruoso. Lui marcava Messi e però ha praticamente diretto il gioco della tre quarti in su una maniera impressionante. Vero. No, ma vero, ma la Germania ha un sacco di giocatori che insomma sono le vere stelle in attesa di questo mondiale, no? Schweinsteiger lo conosciamo ormai bene, è molto giovane ma ha un'esperienza internazionale sconfinata, esattamente come Podolski e come Klose. Ma perché hanno questa esperienza internazionale? Perché li fanno giocare e li hanno fatti giocare quando erano ragazzini. Da noi siamo ancora a parlare di Gilardino come giovane attaccante, ma dove andiamo? Ma dove arriviamo? Francesco, grazie Alberto, grazie, siamo quasi in chiusura. Francesco, Treviso. Eccomi qua, buongiorno al conduttore simpaticissimo, intelligentissimo, però non c'è stato niente da fare. No. contro la Germania grandiosa. Ho chiamato voi. Sono in lutto perché stretto. Non posso chiamare i miei amici che tifavano tutti per l'altra squadra. Io vedo per la Germania campione del mondo. Adesso anch'io dico la verità. Comunque io continuo a dire, giusto per stare simpatico a tutti, continuo a dire che non sopporto la Spagna. Perché mi sembra una squadra, la classica squadra bellissima, continua a guardarsi allo specchio, che continua a menare quel pallone, che però alla fine non fa male, non riesce a far male. Quindi io d'ora in poi tifare contro non mi piace, non mi è mai piaciuto, però tiferò credo Germania, perché mi sembra l'unica alternativa credibile alla Spagna. Io ringrazio i miei amici che mi hanno fatto compagnia in un giorno così difficile. Grazie a te. Grazie a te. Tornate a trovarmi. Adesso lasciamo spazio al maestro Franco D'Assisti per la Rosa Purpurea dopo il giornale radio. Giorgio De Luca in redazione, Paolo Corleoni in regia. Scusate, ma il dispiacere è tanto. Ci sentiamo domani dalle 5 alle 7. Buona serata a tutti. A tempo di sport.